La prossima poesiola è... si chiama L'amante di Fante. Fante è uno scrittore, penso, sicuramente lo conoscete. Il titolo è dedicato all'amante di Fante, però non c'entra niente con la poesia. Mi piaceva il suono, perché mi piace il suono delle cose, non mi piace il significato. E fa così. Poi aspetta, volevo dire quella irascibile. Dico irascibile. Irascibile fa così. Alcuni giorni. Aspetta, no, com'è? Irascibile. In alcuni giorni. In alcuni giorni sono più calmo, in altri meno. Finita l'irascibile. L'amante di Fante. Meno picchiare, vabbè, era una battuta. L'amante di Fante, fa così, fa. Sono l'amante di John Fante. Quante copie ha venduto? Chi è stato l'ultimo acquirente? Devo acquistare un diamante bollente pesante, ma occorre contante. Potrei rivolgermi a Carlito Brigante, ma ormai è latitante. Inoltre leggo che il fumo nuoce gravemente ai polmoni e all'aria circostante. Certo, anche un brillante inesprimente di elefanti non le pare comandante. Preferisce sparare a un mendicante o al presidente? Certamente il primo è l'anello debole mancante di una vita benestante, il secondo è il fabbricante di anelli invitanti, non le pare insegnante. Preferisce studenti, nullatenenti, arrapanti, onnivori di domande che si curano con risposte riposte nei posti più puzzolenti di enoteche, ossia biblioteche. O giovani artisti a rivisti, lettori di mille e mille riviste e novelle, frequentatori di mostre impressionanti, spettacoli teatrali imbarazzanti, dove l'attore in scena batte nocche sulle ante e beve Fanta da un idrante. O ancora, preferisce un poeta ignorante che suscita noia, anche quella importante, con testi ormai ceneri in tombe, o un poeta militante che utilizza rime come il pugile il montante, battendo la cultura imperante per KO tecnico e ritmico? Potrei sempre assoldare soldati da poi assolvere, potrei sempre mungere mucche da poi rivendere. Non mi resta che chiedere alla polvere per poi diluire e piangere. Io sinceramente preferisco la maschera di Arlecchino, più colori, mi ricorda molto meno la bandiera. Fossi fuoco accenderei le consonanti, tutti a casa, felici, svuotati e contenti.